Bat Mamma per questo rientro in diretta che anticipa la rubrica In Scena, restando in scena, anzi portandovi a teatro. Ne riparleremo magari anche per la prossima settimana, in quanto l'appuntamento è per mercoledì 21 febbraio. È un piccolo fuori programma che è arrivato assolutamente attinente al nostro palcoscenico. Seguiamo la stagione teatrale di Crevalcore con tre teatri per te, la stagione 2024. Mercoledì 21 febbraio, Emilio Solprizzi e Carlotta Natoli, L'anatra all'arancia. È un testo di William Douglas Home, con una produzione in questo caso teatrale della compagnia Molière. Come vi ho detto, è nella rassegna della città di Crevalcore. È una rappresentazione teatrale, uno spettacolo e una scrittura che tra l'altro ha avuto una storicità importante, che ha fatto percorsi nel teatro di commedia a livello internazionale. È stata scritta nei primi anni 70 da William Douglas Home, poi adattata da un autore teatrale francese, Marc Gilbert Sauvageon, interpretata negli anni, ovviamente la ricordo pure io, dai grandi attori che hanno portato tra l'altro anche sul grande schermo, riadattata per il cinema. Lo spettacolo è un insieme di personaggi che si muovono a scacchiera, in una scacchiera piena di equivoci e trabocchetti. Questo sarà per il 21 febbraio, la stagione teatrale di Crevalcore è alle ore 21. Mette in evidenza debolezze, rivalità, gelosia. Sì, è una commedia, come ho detto, inizio anni 70 di scrittura, poi più volte interpretata, in questo caso Emilio Solprizzi e Carlotta Natoli con L'anatra l'anatra all'arancia, per meglio dire. Io vi porto a teatro con una possibilità di ingresso, con due biglietti per voi ascoltatrici e ascoltatori. Confermo Sandro, sì, ritornando alla lettura delle prime pagine mi sembra che stiamo andando verso un futuro che venne scritto tanti anni fa da Orwell, 1984, già. E guai, a chi ha obiezioni. Intanto io lancio il quiz per quanto riguarda questo doppio ingresso a teatro, per cui due ingressi per chi risponde scrivendo al 333-180-9494. Il quiz per chi segue il Breakfast Club è abbastanza immediato, perché ne ho parlato più volte di questo aspetto. Sapete che amo la storia, le tradizioni dei paesini, soprattutto quelli in zona di confine. Per me hanno un fascino molto particolare. Crevalcore, esattamente nel crocevia tra Modena e Ferrara, ovviamente con Bologna. Allora, sapete che a Crevalcore il castello è stato assediato più volte, c'è stato un assedio particolarmente forte, particolarmente intenso, che ha portato la popolazione alla fame, ridotta veramente allo stremo delle forze, è riuscita a resistere grazie a qualcosa che ha dato, lo so, io non le amo particolarmente, però questo castello intorno al fossato, ridotti tremendamente alla fame, la popolazione di Crevalcore come si è riuscita a sfamare durante questo tremendo assedio e come è riuscita a sopravvivere, grazie a chi è riuscita a sopravvivere? Se me lo scrivete al 333-180-9494, per voi due biglietti per la stagione teatrale di Crevalcore con L'anatra all'arancia. Non è esattamente, per molti, prelibatezza. Sì, diciamo che non è esattamente la mia pietanza preferita, però è una particolarità. All'epoca, purtroppo, la popolazione di Crevalcore non aveva altro e quindi è riuscita a resistere grazie a questo sacrificio per portare un motivo di resistenza a questo tremendo assedio. Aspetto la vostra risposta. Con cosa hanno vinto la fame durante questo momento difficile gli abitanti di Crevalcore. Con chi? Con cosa? Insomma, lo aspetto al 333-180-9494 e per voi nella stagione teatrale di Crevalcore due ingressi per l'Anatra all'Arancia. Del venerdì ufficialmente parte, doppio appuntamento, un'attenzione al lavoro col focus lavoro di cui abbiamo già parlato a inizio settimana. Daremo approfondimento completo con l'intervista a Roberta Lidia De Stefano che vi ho proposto in una piccola pillola in un last minute nella giornata di esordio dello spettacolo di Grazia. Dopodiché andremo a ITC Teatro a San Lazzaro. Ricordo 333-180-9494 mercoledì 21 febbraio a Crevalcore. Come hanno fatto a resistere alla fame gli abitanti di Crevalcore? Tra l'altro è un simbolo adesso della città, se vogliamo, me lo scrivete ricordando che intorno al castello c'era questo fossato, per cui insomma è abbastanza anche immediato. Aspetto le vostre risposte al 333-180-9494. A tra poco.